E allora tra un minuto cosa c'è? E beh, insomma, c'è solo il tempo di leggere la Gazzetta dello Sport. Peter oggi mi dice: mi raccomando, leggi la Gazzetta dello Sport. Quindi discuteva, peccato perché ieri era quasi proprio finita la partita, ma purtroppo l'Inter non ce l'ha fatta, e nel senso che ha perso l'andata. Inter, che frittata! Questo l'errore di Giulio Cesare al 90esimo, ride il Bayern. Dunque, insomma, è finita 1-0 per il Bayern, ma c'è sempre il ritorno. E che dire, voglio leggere Rompipallone di Gene Gnocchi. Berlusconi assicura il suo appoggio a Roma 2020. Le atlete del beach volley possono dormire a casa mia. Questo Gene Gnocchi. Io vi ricordo il tema del nostro sondaggio: parliamo di questi possibili sbarchi di migranti dalla Libia, e vi chiediamo: l'Unione Europea secondo voi dovrebbe gestire uno smistamento di questi profughi in arrivo nei vari paesi europei? Con questa domanda vi lascio, votate il sondaggio. Ora il giornale radio 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:23 minuti. Voglio salutare Luigi Manconi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, gli ascoltatori. Ex sottosegretario, ex senatore, presiede oggi l'associazione A Buon Diritto. Senta Manconi, lei ha denunciato alla Procura di Roma il sindaco Alemanno per omicidio colposo per la vicenda dei 4 bimbi rom rimasti uccisi in un rogo di recente. Perché ha fatto questa mossa? Perché una semplice ricerca ha dimostrato in maniera inequivocabile come nel corso di 8 mesi, gli 8 mesi che precedono la tragedia, fossero arrivati all'attenzione del sindaco ben 5 documentate, circostanziate segnalazioni che indicavano come quell'insediamento fosse gravemente a rischio. Nel primo di questi rapporti, scritto dai carabinieri, si parlava esplicitamente di pericolo di incendio. Nel corso di questo lungo periodo, mesi e mesi, nulla è stato fatto, proprio nulla, da parte dell'amministrazione comunale affinché quella fonte di pericolo estremo, che coinvolgeva, come poi è accaduto, minori, fosse in qualche modo rimosso. Però siccome il sindaco è il responsabile, sì, secondo la legge della protezione civile, ha omesso a tutti i suoi doveri. È un'accusa molto grave quella che fa il portavoce del sindaco, la respinta parlando anche di speculazione su una tragedia. Guardi, la speculazione è di chi ha fatto un'intera campagna elettorale agitando la minaccia rappresentata dai rom, dagli stranieri e dai vagabondi, e poi, una volta eletto sindaco, nulla ha fatto perché questi gravi problemi sociali fossero affrontati con adeguate politiche pubbliche. Il cittadino, come io sono, un cittadino che assiste a una tragedia, cerca di individuare le responsabilità e di segnalare quelle che il codice penale, la legge, attribuisce ai vari soggetti, in questo caso al sindaco della città di Roma. Però in questo cosa doveva fare? Perché guardi, come lei ben sa, anche i genitori di questi poveri bambini, insomma, che sono rimasti vittime, si ritrovano per, credo, abbandono di minori, no? Certo. Sotto inchiesta, ma, voglio dire. Ma certamente. È dura dirlo, ma forse la responsabilità è soprattutto loro. No, la responsabilità è di molti soggetti, sia chiaro, nessuno vuole escludere le responsabilità di chi ha consentito, in questo caso i genitori, che i bambini non fossero tutelati, ma accanto a quelle responsabilità ce ne sono altre. Io voglio ricordare che per 2 anni a Roma si è parlato di un piano nomadi. Questo piano nomadi si è manifestato solo ed esclusivamente attraverso sgomberi, ovvero persone che venivano allontanate dai luoghi dove si trovavano e alle quali persone non è stata offerta alcuna soluzione alternativa. Tutto sta nelle cifre. Quando è iniziata il piano nomadi, c'erano a Roma 80 insediamenti informali abusivi. Con l'inizio del piano degli sgomberi non è stato creato un solo nuovo posto e gli insediamenti abusivi sono diventati oltre 220, sono triplicati. È il fallimento di una politica. In questo fallimento si manifesta anche il tratto tragico sì, di una situazione in cui vediamo quattro bambini morire bruciati. Io nel concludere, lei comunque ha precisato ieri, non è una provocazione, cioè una, lei ritiene davvero il sindaco colpevole di omicidio colposo, responsabile? Assolutamente sì, nel senso che un amministratore che ha la responsabilità del governo di una comunità ovviamente deve provvedere a che il primo suo dovere da rispettare col massimo della cura è la tutela della incolumità dei suoi cittadini. Le istituzioni, lo Stato nazionale, le amministrazioni locali esistono in primo luogo per tutelare l'incolumità dei cittadini. Chi ometta i propri doveri, chi non si assume le proprie responsabilità, chi non adempia i compiti, chi dopo 8 mesi di segnalazioni dettagliate su un pericolo di incendio non interviene per rimuovere quella causa è responsabile dell'evento che non ha saputo evitare. Io mi riferisco a un articolo del codice che dice esattamente questo, che è responsabile di una fattispecie penale chi non ha evitato l'accadere di un evento che giuridicamente poteva evitare. Il sindaco giuridicamente poteva evitare quell'evento. Tocca alla magistratura. Sì, certo, infatti, la mia denuncia ha fondamento. Infatti era quello che volevo dire io. Vedremo cosa deciderà la Procura di Roma. La ringrazio, buona giornata. Grazie, Luigi Manconi, giornata. Presidente dell'associazione a buon diritto, che ha denunciato il sindaco Lemanno per omicidio colposo alla Procura di Roma per la vicenda del rogo in cui sono morti 4 bambini in Rom. Ci fermiamo dopo la pubblicità nel nostro sondaggio che potete già votare su radio24.it. Parliamo di sbarchi in arrivo. Qualcuno dice 1,5 milioni di profughi in arrivo dalla Libia. L'Unione Europea dovrebbe accollarsene ogni Stato membro una parte, questo vi chiediamo, uno smistamento nell'Europa ci dovrebbe essere. Votate tra poco se volete intervenire 800 24 00 24. 24 mattino. Alle 8:35 minuti eccoci qua a parlare di quelle che sono le cifre. Io voglio iniziare da un titolo di un quotidiano. Il quotidiano nazionale mette così in prima pagina la foto di uno sbarco di persone. Arrivano con questa minaccia. I titoli sono già qualcuno, 1,5 milioni di possibili migranti in arrivo dalla Libia. E l'Unione Europea che cosa dovrebbe fare? Questo è il tema del nostro sondaggio. Io sono o blanco o negro. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Questo è lo scenario, a vedere i titoli dei giornali. In Italia siamo bravissimi ad allarmare subito, no? Arrivano 1,5 milioni di clandestini, questo titolo alla Padania, mentre il quotidiano nazionale appunto arrivano semplicemente con questa foto un pochino inquietante, dovrebbe un po' allarmarci tutti. I profughi potrebbe essere 1,5 milioni per la Stampa. Ci sono cose invece tecniche un po' più serie, con Maroni che chiede all'Unione Europea di attivare un fondo di solidarietà. Già si litiga, il presidente della regione Sicilia Lombardo dice li accolgano le regioni più ricche, il Veneto per esempio, e il governatore Zaia dal Veneto dice può anche starsene zitto, ha perso un'occasione. Insomma, non sono ancora arrivati, forse arriveranno, si presume che arriveranno certamente in una situazione libica di non controllo delle persone, dei migranti, e già si litiga o si questiona che farne. L'Europa dovrebbe accollarsi uno smistamento di eventuali profughi che può avvenire solo su base volontaria, lo ricordiamo, questo vi chiediamo, presumibilmente, come era presumibile, il 90% di voi per ora dice di sì, ma vogliamo discuterne con Laura Boldrini, che in Italia è portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati. Buongiorno Boldrini. Sì, buongiorno a voi. Così come Matteo Salvini, che è europarlamentare della Lega da Bruxelles. Buongiorno e ben ritrovato Salvini. Buongiorno a voi. Allora, intanto Boldrini, queste cifre ci può aiutare a capire qualcosa? Perché è un po' un impazzimento, insomma, da 1,5 milioni, non si capisce. Guardi, queste cifre, come altre che si sono sentite questi giorni, sono cifre assolutamente preoccupanti, ma io mi chiedo quali siano le fonti di queste cifre. Normalmente quando si fanno delle stime in casi simili si fa riferimento a fonti che sono di intelligence, di ambasciata, di osservatori che sono nel paese. Dunque sono cifre che devono avere un riscontro nella realtà da chi questa realtà studia. Ora, io non sono in grado di dire come mai circolino queste cifre, so però che in circostanze analoghe è importante essere pronti a tutti gli scenari. Dunque è giusto predisporre piani di intervento, capire appunto le disponibilità che ci sono in termini di accoglienza, ma è anche vero che non bisogna alzare troppo i toni, perché nel fare questo, come lei giustamente evidenziava nella lettura dei titoli di alcuni quotidiani, si rischia di creare un'ansia da invasione. Ora questo andrebbe a complicare ancora di più. Se ci fosse un flusso, andrebbe a complicare la gestione di questo fenomeno, perché se si crea ansia, giustamente la popolazione non avrà poi un atteggiamento di apertura e di anche solidarietà verso che queste persone. Dunque noi ci troveremo poi a gestire la crisi degli arrivi e quella poi delle comunità locali che rispetto a queste persone si metterebbe in un atteggiamento completamente negativo. Una crisi anche mediatica, insomma, anche di gestione. Accoglienza. Dunque, un richiamo ad abbassare i toni, perché altrimenti questo andrà a costituire il problema nel problema. Questo è chiarissimo. Bisogno. Io vorrei chiedere a Matteo Salvini, che sta a Bruxelles, se condivide l'opinione su alcuni giornali, che è questa, ma non so, per esempio il giornale Libero, ma anche la Padania, arrivano un milione, o insomma arriveranno dei profughi e l'atteggiamento dell'Unione Europea è: arrangiatevi. C'è questa sensazione davvero di così abbandono per l'Italia? A Bruxelles oggi ci sarà anche il ministro Maroni. Vi dico solo che se non fosse stata per l'insistenza del ministro Maroni e del governo italiano, oggi alla riunione dei ministri degli interni a Bruxelles non si sarebbe manco parlato dell'emergenza Nord Africa, perché la burocrazia diceva che non c'era stato abbastanza preavviso. Oggi se ne parla e già questo vi dà la dimensione. L'Unione Europea ha già fatto capire che, come da 2 anni a questa parte, non ha nessuna intenzione di attivare il principio di solidarietà europea e di distribuire sul territorio l'eventuale arrivo dei rifugiati, perché ovviamente l'accoglienza va riservata a coloro che ne hanno diritto, riconosciuti certo. Aver diritto di essere rifugiati, perché i clandestini in quanto tali saranno rimpatriati. L'Unione Europea ha già detto no grazie. E io ricordo che l'Italia è il terzo contribuente, chi ci sta ascoltando in questo momento partecipa al fatto che nel 2011 gli italiani verseranno a Bruxelles 14 miliardi di euro. Ma mi faccia capire, lei e Salvini cosa vorrebbe? Che l'Europa, siccome è una scelta volontaria quella degli stati membri di eventualmente accogliere alcuni rifugiati, sparpagliarli, so che è brutto di questa parola per l'Europa, cioè dovrebbe invece fare una persuasione a tutti gli stati membri, non so, se ne arrivano 1 milione prendetene un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù. Veda un po' lei, altrimenti rimangono tutti in Italia. L'Europa ha 27 paesi, è chiaro che un rifugiato libico-egiziano difficilmente arriverà in Finlandia, in Svezia, in Polonia o in Lituania, sono un pochino più scomode rispetto alle coste italiane da raggiungere. Se l'Europa è un'unione, come spesso ci raccontano, non è solo un'unione economica, ebbene a tavolino ciascuno dei 27 stati membri decida quanti uomini e quante donne può accogliere e soprattutto quanta spesa può sostenere, perché io da consigliere comunale di Milano so che già da oggi noi mettiamo a disposizione 150 posti in Milano per eventuali rifugiati politici, il costo pro capite al giorno è di 55 euro. Questa sarebbe una richiesta legittima, cioè si chiedano soldi, l'Unione Europea contribuisca. Per esempio qualcuno dice, quando sono arrivati dalla Germania dopo le guerre balcaniche 300.000 profughi, la Germania se l'è tenuti, non è che ha chiesto Italia prendetevene 10.000. Per esempio, no, Salvini, questo. Erano tedeschi, qua non stanno arrivando degli italiani, degli spagnoli o dei francesi. E soprattutto siamo di fronte a un rischio che è ben diverso da quello del crollo del muro di Berlino. Ma io dico le guerre balcaniche, cioè non erano tedeschi, quelli, i profughi dalle guerre balcaniche della ex Jugoslavia sono andati molto in Germania e la Germania se li è tenuti, non è che ha chiesto di smistarli. L'Italia anche in quell'epoca fece la sua parte e comunque oggi la situazione è diversa, ripeto. Io ho fatto un conto ieri in ufficio a Bruxelles, negli ultimi anni gli italiani hanno versato a Bruxelles 60 miliardi di euro in più rispetto a quello che hanno ricevuto indietro, quindi mi sembra che un minimo di riconoscenza, visto che l'Europa ogni tanto ci tira le orecchie nel nome della solidarietà e dell'accoglienza, ebbene di solidarietà dimostrino qualcosa. Allora vediamo, Laura Boldrini, le richieste sono due, una secondo me più legittima, quella di contribuire economicamente, perché se arrivasse un flusso di profughi, di rifugiati, insomma che contribuire contribuisca all'Europa economicamente. La seconda invece è quella dello smistamento, che deve avvenire su base volontaria. Sono richieste legittime quelle che faceva Salvini, Boldrini? Intanto mi lasci dire che io ho abbastanza anni per ricordarmi la crisi balcanica, ci ho anche lavorato, dunque mi piaceva anche ricordare che infatti nei primi anni 90, dal 90 al 94 più o meno, ecco, non c'è stato un anno che in Germania siano arrivati meno di 100.000 bosniaci, croati e altri gruppi serbi della ex Jugoslavia. Mi ricordo che nel 1992 in Germania arrivarono in un solo anno 440.000 persone e fecero tutte domande d'asilo. Dunque una grande prova fu per quel paese gestire questa emergenza. Negli stessi anni anche l'Italia certamente aveva un flusso, ma non è assolutamente paragonabile a questi numeri. È anche vero che l'Italia poi alla fine degli anni 90 si è trovata con flussi provenienti dal Kosovo via Albania o via Montenegro, sì, ma parliamo di circa 30.000 persone, e dunque però si fece fronte in quella circostanza anche con delle complicazioni, ma si fece fronte. Certo, idealmente sarebbe una buona occasione per mettere in atto una collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea, ma quello che va anche rilevato e che mi sembra sia poi l'obiezione di questi Stati membri è l'impegno che questi Stati membri hanno sul terreno dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Dunque, siccome io non amo fare polemiche, ma mi riferisco alle statistiche ufficiali dei governi, non interpretate dall'Alto Commissariato, allora sarà bene ricordare alcune cifre per capire e far capire agli ascoltatori. Per quanto riguarda le domande d'asilo, perché qui parliamo di potenziali richiedenti asilo, ecco, lo scorso anno in Germania ci sono state 40.000 domande d'asilo e in Francia circa 48.000 domande d'asilo. Dunque, siccome in Italia ce ne sono state 10.000 invece, sì, questi paesi potrebbero dire allora no, prendetemene di più voi, facciamo la suddivisione dell'onere, sì, e sì, sicuramente l'Italia non ci guadagnerebbe. Però almeno soldi è legittimo chiedere, li voglio dire, uno sì, può sostenere. Io ritengo che è più, no, ma tutto è legittimo, voglio dire, se c'è la disponibilità, ma poiché i numeri che riguardano i rifugiati e richiedenti asilo in Italia sono modesti, minori, gli sì, altri certo, stati membri obiettano che nella suddivisione dell'onere, no, l'Italia non può chiedere agli altri paesi che ricevono attualmente molti più richiedenti asilo e rifugiati di prendersene ancora. Sì, sì, sì, no, è chiarissima, cioè, questa cosa, visto che in Italia le richieste sono molto minori. Per i contributi economici mi sembra che ci siano dei varchi e anche delle disponibilità. Mi sembra di aver capito che l'Europa abbia comunque preso in considerazione l'opzione di mandare dei tecnici, c'è anche la missione Frontex, sì, Hermes, così come si chiamerà questa operazione, con degli esperti europei, dei mezzi aerei. No, no, ma il commissario Barroso ha detto che deve essere una cosa gestita in comune. Fatemi dare le informazioni sul traffico, poi voglio sentire qualche ascoltatore, ripartirò da Paola dalla provincia di Firenze e i nostri ospiti, che ricordo sono Matteo Salvini della Lega e Laura Boldrini, che è portavoce in Italia dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? L'Unione Europea dovrebbe accollarsi questo smistamento di eventuali profughi in arrivo dalla Libia. Il 91% di voi dice di sì. Voglio sentire Paola dalla provincia di Firenze che ne pensa. Buongiorno Paola. Buongiorno a lei, dottor Milan, Nico. Grazie dell'ospitalità. Ma io credo che ragionando in termini di Unione Europea come unico Stato, l'Italia costituisca le spiagge per quei paesi dell'Unione Europea che non hanno il mare. Quindi noi siamo un po' le coste, eh certo, di questa grande unione. Arrivano da noi, siamo... Esatto, in tal senso arriveranno da noi, fra l'altro se i flussi in entrata sono quelli per adesso stimati, i numeri forniti dalla dottoressa Boldrini credo che si impenneranno drasticamente al rialzo. Pertanto trovo giusto e corretto che tutti i Paesi membri diano una mano alla gestione di questa, che fra l'altro non è un'ordinarietà dei fatti. Ma, sì, ma una mano come? Cioè vuol dire prendersene una parte di queste persone? Perché questo anche, è solo... Anche. Anche. Perché tutto sommato il flusso migratorio dei lavoratori si sposta in tutta l'Unione Europea, pertanto così come noi abbiamo bisogno di lavoratori esteri perché alcuni comparti come l'agricoltura e l'industria restano scoperti, sicuramente altri paesi sono nella stessa identica situazione. Per cui in un'eccezionalità di gestione bisogna anche fare un'eccezionalità di vita all'interno della comunità europea. E questo infatti, no, ma infatti questo è il tema di cui discuteranno tra l'altro oggi, come ci ha detto Matteo Salvini a Bruxelles, i ministri. Grazie Paola, voglio andare a Roma da Stefano, buongiorno. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti quanti. Dunque, io ho solamente una perplessità, nel senso che sono perfettamente d'accordo sul fatto che l'Europa intervenga, e credo che anche quando c'è stata la scorsa settimana una trasmissione analoga, un rappresentante della comunità europea ha detto appunto che l'Italia avrebbe dovuto chiedere. Sì, avevamo il portavoce del commissario Malmström. Esattamente. Io adesso chiedo però all'onorevole Salvini, al senatore anzi, perché l'Europa dovrebbe essere, diciamo così, avere un occhio di riguardo nei confronti dell'Italia, quando poi invece in casa nostra il governatore del Veneto dice no, teneteveli in Sicilia? Cioè, voglio dire, l'autorità non può essere solamente a senso unico, sono sempre gli altri che devono intervenire. Oh, bella domanda, grazie Stefano. Allora, grazie Salvini, la domanda dell'ascoltatore, perché ci vorrebbe dovrebbe essere solidarietà europea quando Zaia a Lombardo, il governatore della Sicilia, ha detto stia zitto a dire che se li debbano tenere, che se li debba prendere il Veneto, le regioni più ricche? Cos'è, una solidarietà a senso unico? Ma l'ascoltatore di Roma sa dove vivono i 5 milioni e mezzo di immigrati residenti in Italia? Sa che per i 2/3 vivono in Padania e che la provincia di Milano accoglie e ospita, e lo fa volentieri, più immigrati che non tutto il sud Italia? Quindi parliamo di numeri. Adesso il governatore della Sicilia ha un bel da dire, ma gli immigrati vadano a nord dove c'è più lavoro. Qualcuno gli dovrebbe comunicare che c'è una leggera crisi che coinvolge anche il nord. Però il principio, Salvini, è lo stesso. Voi dite, giustamente, se arrivano nel sud dell'Europa, vadano anche al nord dell'Europa. E Lombardo dice, se arrivano al sud dell'Italia, vadano anche al nord dell'Italia. Sì, il problema è che quelli che arrivano in Italia arrivano tutti a nord. Perché poi da Lampedusa non si fermano a Crotone, a Cosenza, a Reggio Calabria, ma ovviamente vengono dove c'è più opportunità di lavoro o di sopravvivenza, perché sappiamo benissimo che chi deve sopravvivere, se non può lavorare, sopravvive in altra maniera. Ma visto che stiamo parlando di rifugiati, non stiamo parlando di immigrati tout court, visto che stiamo parlando di rifugiati che, ripeto, scappano, almeno come tali dovrebbero essere riconosciuti, da una guerra, quindi per motivi politici, etnici, religiosi o quant'altro, e visto che l'Europa si riempie la bocca della parola solidarietà, e visto che l'Italia la sua parte la sta già facendo e alla grande, e ripeto, il solo comune di Milano l'anno scorso, è brutto parlare di soldi, però poi alla fine a questo si arriva, ha speso più di 8 milioni di euro per dare accoglienza ai rifugiati sul territorio del comune di Milano. Ripeto, è facile dar lezioni di democrazia e di accoglienza da Helsinki, da Stoccolma o da Varsavia, dove un libico l'hanno visto per l'ultima volta 3 anni fa. Per quanto riguarda il Veneto, lei dice ha già dato, il nord sta già dando. Le chiedo questo, Salvini, perché c'è stata la polemica di in passato, in recente, sulla questione dei respingimenti. Dovrebbero essere, lei può scongiurare che insomma non dovrebbero essere fatte almeno i respingimenti, cioè in un primo momento dovrebbero essere accolti tutti e poi valutate le domande, oppure respingimenti in mare? Il principio dei respingimenti fu sottoscritto dapprima da D'Alema come ministro degli esteri del governo italiano, e piaccia o non piaccia è stata una scelta poi confermata dal governo di centrodestra, perché la differenza rispetto al passato, e qua facciamo calare il velo di ipocrisia, è che siamo di fronte a un rischio mai corso che ha l'estremismo islamico al suo interno. Non stiamo parlando di coloro che scappano dalla Germania Est, dall'Ungheria, dalla Romania. Ma in questo caso specifico democratico è arrivato. Ma in questo caso stiamo parlando di una bomba a orologeria di stampo islamico. Ma in questo caso lei, cioè, lo farebbe, oppure è una situazione per cui c'è una guerra, una situazione per cui no, bisogna accoglierli e poi si vede? Guardi, fino a questo momento, visto che ci sono guerre, almeno così è chiaro a tutti, si fa arrivare e si accoglie identificando chi ha diritto di essere accolto. È chiaro che se l'Europa ci dovesse rispondere picche, sono affari vostri, al massimo degli spagnoli e dei greci, a questo punto l'Italia non può essere punto d'approdo e di rifugio di centinaia di migliaia di persone. Questo mi sembra evidente. Laura Boldrini, devo concludere su questo. La questione dei respingimenti, la questione accoglierli, e Salvini dice però vediamo, se ci lasciano da soli, allora da soli gestiamo. A me sembra che su questo punto, se non altro per adesso, non ci siano stati problemi. Io sono stata a Lampedusa una settimana, ho parlato con questi ragazzi tunisini che sono arrivati, nessuno ha parlato di situazioni di respingimento da parte italiana. Certo, ci sono stati anche degli incidenti grossi con dei morti, un'imbarcazione schiantata perché c'è stato l'urto di una motovedetta tunisina che cercava di impedire la partenza di un barcone. Non dimentichiamoci che ci sono ad oggi dispersi e persone che sono morte in questo. Io ritengo che il respingimento sia comunque una misura assolutamente pericolosa quando viene messa in atto, oltre al fatto che se a bordo ci sono rifugiati e richiedenti asilo, è contraria agli obblighi internazionali stabiliti dalla Convenzione di Ginevra che l'Italia ha sottoscritto. Dunque siamo per adesso molto contenti che questa ipotesi non sia messa in atto e ci auguriamo che non lo sia neanche in futuro, perché comunque non è così che si risolve il problema. Il problema va risolto anche sostenendo quello che sta accadendo, cioè dal punto di vista proprio dei movimenti all'interno di questi paesi. Se si sosterrà senza ingerenze questi processi di democratizzazione, le persone vorranno rimanere nei paesi, vorranno collaborare a questa nuova fase. E non, dunque e non è importante partiranno. Anche il ruolo che l'Europa potrà giocare in questo ambito. Se poi però le cose dovessero andare diversamente, è chiaro che chi ha tentato di fare un cambiamento e non c'è riuscito si troverà in pericolo in questi paesi. E dover partire. Tra l'altro vedremo se sarà quella situazione di scenario del arrivano che titola oggi il quotidiano nazionale. Io vi ringrazio Laura Boldrini, Matteo Salvini della Lega. Laura Boldrini è portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati in Italia, con Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi in redazione e con Peter Bescapè in regia. Vi diamo appuntamento su Facebook, siamo lì con le nostre foto, c'è anche quella di Alessandro Longoni, incredibile, è arrivato 24 mattino su Facebook, e do la linea a Oscar Giannino. Ci troviamo domattina alle 7:20.